Il polla, ma la polla, il passero, la passera, ma tutti amano Zillo. Ma lui vi odia tutti. Zillo. Un saluto a tutti i CEO e i runner di Netrunner Italia. Qui è Federico Junior Spada in compagnia di Simone Suca Altamore. E siamo qui insieme per presentarvi il primo numero della rubrica Dillo allo zio Wotan. Questa rubrica è nata parecchio tempo fa, ormai si parla di, stiamo vedendo cos'era, maggio? Sì, tipo 28 maggio. Ecco, allora. Perfetto. Dopo un'idea mia pazza e malsana, e visto che ci sono stati in mezzo un po' di problematiche, questo è il primo numero dove raccoglieremo, anzi dove abbiamo già raccolto, grazie al buon Simone Suca. Esatto, abbiamo già raccolto un tot di segnalazioni vostre che avete mandato al buon zio Wotan. Quindi, sì, esatto, buono, forse è un eufemismo, no? Forse è proprio una bugia, proprio che è un eufemismo. E niente, direi che possiamo subito partire con la prima lettera che ci viene inviata da Francesco Baralai d'Alessio. Che ci scrive: caro zio Wotan, ho appena perso contro Near Heart Hub con Biotic perché in 10 carte di index in consecutive non c'erano agende. Quindi zio Wotan, cosa dici a questo poverino? Ciao Simone, ciao Fede, cosa posso dire a Baralai? Considerando i tuoi ultimi risultati, io penso che sarebbe il caso che indexing non lo usassi più. Oppure ti auguro di giocare 14 indexing in una partita e di vedere solo snare o eventi non trasciabili, in modo che tu possa finalmente provare quello che provano tutti i giocatori normali. Ti mando un forte e stretto abbraccio cibernetico, molto forte e molto stretto. Beh, che dire di questo simpatico bioroide, eh? Questo simpaticissimo personaggio. Vedo che, come dire, probabilmente le vacanze non è che... Penso che non le abbia fatte, visto che si imbruttisce a questi livelli. Boh, cosa commenti da parte tua, Simone? Guarda, dai, semplicemente ti ha invitato a prenderti un brain damage in faccia ogni volta che giocherai. Devi diventare stupido, come una persona normale. Smetti, ha ragione. Ecco, vedete, penso che, come dire, lo zio Wotan ha contagiato già Simone. Speriamo che non peggiori la situazione, se no tra po' comincerà a picchiarmi in sala di registrazione. Beh, bella storia. Invece, cosa abbiamo come prossima letterina, Simo? Dai, vediamo un po'. Allora, ci scrive Donnola Donnini, ci dice: zio Wotan, la gente è strana. Hai sonno e mezzanotte ci sta giusto un'altra partitina su Octagon prima di dormire. Becchi un tizio con un mazzo HB da 100 più carte e che difende la sua scelta perché a lui piace sperimentare cose nuove, non copia e incolla di mazzi da internet e cose così. Forse ci sarà un motivo per cui questi mazzi non si trovano su internet. Fanno cagare. Ogni due turni rifà un'azione, chiede una regola o la sbaglia. La partita finisce all'1:45. Finisce con un bellissimo limortacci sua. Beh, cacchio, come dire, beh, abbiamo già capito che comunque il buon donno a questa cosa non è che avesse fatto molto piacere. Chissà invece come la pensa lo zio Wotan, proviamo a chiederglielo un po'. Allora, zio Wotan, cosa ne pensi di... cosa dici al buon donno dopo questa sua considerazione riguardo a questa serata? Ciao donno, volevo in realtà più che risponderti porti un quesito. E se il mazzo da 100 più carte fosse stato Jinteki, magari Personal Evolution, magari con tutte agende da 1 e magari con solo trappole, avresti vinto? Secondo me può essere, ma di sicuro avresti bestemmiato molto molto di più di quello che probabilmente hai fatto a fine di quella partita. Mi raccomando, non demordere e ricordati che c'è sempre peggio dei mazzi contro cui puoi giocare, ricordatelo. Ciao e mi raccomando, dormi di meno. Beh, che dire, sempre molto simpatico, molto comprensivo, sempre pronto a rispondere ai bisogni di tutti, anche ai bisogni della buon donnola, che, anzi del buon donnola, che ha ricevuto un importante suggerimento, secondo me, quello di dormire di meno. Chissà per quale motivo bisogna dormire di meno, no? L'ho proprio capita, ti giuro. Vabbè, che dire, evidentemente, beh, lui non dorme, per cui, come dire, almeno lo zio Wotan non dorme. No, non credo che ne ha bisogno, considerando il personaggio. Sì, forse probabilmente è il motivo per cui è così incattivito col mondo, forse proveremo a proporgli un sonnellino. Però, bando alle ciance e ciancio alle bande, la prossima lettera di chi è? Di chi è, Simone? È di Manuel Morelato, che ci scrive: giocando contro un certo Federico Spada, quanto mi sta sulle palle Federico Spada, ho sprecato, non ho idea click di chi sia. Ho sprecato click come un dannato alla ricerca di Jackson Howard, mi serviva per rientrarmi nel Maxi Biotic Labor. Strano. Avevo soldi e agende in mano, mancava solo il Biotic e in un turno avrei scorato e vinto. Strano ancora di più. Purtroppo Jackson Howard era l'ultima carta del mazzo. Lui mi farà un suo R&D, la vede, me la macina al costo 3 e io perdo di 1000. Zio Wotan, cosa vogliamo dire a quest'altro poveraccio? Io purtroppo lo capisco anche. Zio Wotan? Innanzitutto saluto Manuel, mentre guardo male Federico per questa cosa bruttissima che ha fatto. Però posso capirlo e ribadisco... avrebbe potuto farla finire prima se solo avesse giocato le Demolition Run, però si sa, Federico non gioca mai i mazzi Anarch, e quindi, come dire, un po' te la sei cercata. Immagino che giocassi Fast Advance, vero? E non mi avessi messo dentro il mazzo, giusto? A questo punto ti auguro di non trovare mai più il buon Jackson, maledetto giocattolaio, e di trovare solo me nei tuoi mazzi. Mettimi pure dentro in tripla copia e vedi che non ti deluderò mai. Ti aspetto presto nel tuo mazzo, lo zio Wotan. Ho come il presentimento che lo zio Wotan si riferisse al vedersi nel tuo mazzo, nonostante tu non lo metterai in tripla copia. Sì, ti frega un cazzo dell'influenza. No, assolutamente. 5 di influenza in un NBN, lui se ne sbatte, lui è sopra il sistema, cioè non esiste. Quindi probabilmente tutti siete invitati a infilarlo nei mazzi. Tanto non è un vitello che costa una marea di soldi. Per cui, vabbè, tranquilli. Mettetelo tutti nei mazzi che... Secondo me, bisognerebbe provare a fare una prova, secondo me. Proviamo a metterlo nei mazzi, provate a mandare una letterina allo zio Wotan, magari è più gentile con voi. No, ce l'ho. Facciamo un mazzo da 100 carte con 98 zio Wotan. Ragazzi, allora parte la campagna, raccogliete gli zio Wotan, tutti i giocatori sono invitati a portare 3 copie dello zio Wotan per riuscire a montare questo mazzo legalissimo, tra l'altro, da portare a un torneo, mi raccomando. Ma perché? Eh? Non si può. Non lo so, però vedremo, dobbiamo chiedere alla Fantasy Flight. Ecco perché non vinco mai i tornei. Forse è quello il motivo, vabbè. Prossima lettera invece di chi è? La prossima è di... Ah, è mia. Hai scritto allo zio Wotan? Ho scritto allo zio Wotan secoli fa, perché era ai tempi del mio primo torneo, ecco. In cui scrivo, infatti, ho trovato un giocatore molto forte al mio primo torneo che ha avuto la classe di installare Torch con Test Run e Scavenge al turno 1, mentre io avevo in campo soltanto 2 Enigma, che erano gli unici 2 Codegate del mazzo. In più ha iniziato a sifonarmi, tenendosi tag, e non potevo scorciarlo nonostante le 3 scorce d'arte in mano. Ecco, bella situazione, possiamo provare a chiedere, come dire, vabbè, posso già immaginare la risposta dello zio Wotan, però proviamo a chiedergliela lo stesso. Allora, zio Wotan, cosa dici qua al buon Simone? Non menarlo, però chiedigli digli qualcosa più che altro. Simone, come dire, ti rispondi da solo? Cioè, metti dentro 2 Enigma, gli unici 2 codegate del mazzo, e poi pretendi di giocare 3 Scorched Earth? Come dire, Scorched Earth, che metodo vile per vincere la partita. Io faccio anche, se vuoi, da Scorched Earth. Perché non mi utilizzi, maledetto? Cioè, l'unica cosa che ti posso augurare è di avere 1000 crediti e di non vedere mai un Sea Source, di non vedere mai qualsiasi cosa che possa taggare. Cioè, è proprio... te lo auguro, davvero. Però, ti assicuro che se mi metti nel mazzo cambierà tutto, fidati. Mettimi nel mazzo. Un saluto. Sì, zio Wotan, grazie. Prego. Non lo giuro, non lo farò mai più. Ti metterò in ogni mazzo, ti metterò. Ti scrivo Scorcheador sopra vicino a Zio Wotan, lo giuro. Comunque ho smesso di usare Scorcheador, adesso sono passato a un mazzo che sta simpatico a tutti, NBN Fast Advance. Sì, un mazzo che non gioca nessuno, che sta simpatico a tutti, che non causa fastidio. È antimeta, sì, è antimeta della Polonia probabilmente, imbecille. Vabbè, comunque andiamo avanti, va? Prossima lettera, perché è inutile che ci mettiamo a commentare pure gli NBN Fast Advance adesso, per cortesia, vai. La prossima lettera è di Alex Freddi. Il Conte Frost, Sì, carissimo! è un cretino, non mi sono simpatico. Ma no, ma basta, No, smettila! vabbè, è simpaticissimo. E poi si dimentica di prendere le NAP negli E poi gioca archivi. a e poi E gioca poi soprattutto gioca gioca ANAP. ANAP, per Ok. cortesia. Allora, ci scrive: caro zio Wotan, immagino sarai ancora arrabbiato per non averti incluso nel mio mazzo HB Next. E le frasi poco lusinghiere sulla scarsa tua economicità, ma punirmi con una mano iniziale priva di ICE o accelerata beta test con due agende e un'operation mi fosse un tantinello, mi pare fosse troppo crudele. Soprattutto in un mazzo con 24 ICE. Saluti, Frost. Beh, allora, anche qua, situazione mai vista, mai sentita. Credo che fosse la prima volta nel meta italiano che succede una cosa del genere. Però, nonostante questo, proviamo a chiedere il parere dello zio Wotan, che ho paura che sia sarà un Però tantinello. gli ha chiesto scusa prima. Sì, però la faccia dello zio Wotan non lo vedo molto contento di questa cosa. Sei Proviamo. fottuto. Zio Wotan, ascolta, c'è Frost che ti ha mandato la letterina. Cosa vuoi dire al zio Frost? Frost, ti ringrazio per le tue parole molto lusinghiere, no? Beh, sappi una cosa, non mi troverai mai utilizzando l'accelerator beta test. E, nel caso tu mi trovassi, verrò immediatamente derezzato da uno shutdown, sicuramente. Perché tu non credi in me, devi credere in me. Io sono l'ICE che ti salva, tu non ci puoi credere. Ma prova, tre per dello zio Wotan del tuo mazzo ti salverà. Cioè, 24 ICE, non ti servono 24 ICE, ti servono 5 ICE. Tre sono io, due è mio fratello, Ichi, che è poverino, anche lui non lo crede quasi nessuno. Quindi fidati, mi raccomando. Io ho un endgame, sembra che sia poco economico, ma fidati che è grosso come una casa. Ti ringrazio, spero che non debba più sentire queste tue parole, ma che inizierai anche tu a credere nella religione dello zio Walter. Grazie, a presto, buoni tornei. Lo zio Wotan è stato anche molto, molto, incredibilmente più gentile di quanto avrei temuto. Pensavo che Frost sia ancora vivo. Sì, credo di sì. È stato, dai, ti è andata bene, poteva andarti molto peggio. Gliel'hai pure detto, l'hai insultato. Ti senti, guarda che Wotan, guarda che lo sentivo cosa gli diceva dietro di te. Poi sono saltate le parti Sì, belle. appunto. Vabbè, comunque lo zio Wotan si vede che c'ha qualche annetto sulle spalle, visto che continua a ripetere che bisogna metterlo 3 volte nel mazzo. Vabbè, ragazzi, cosa vi devo dire? Mettiamolo 3 volte nel mazzo e facciamo. No, che poi chiude la rubrica. No, no, no, non mettiamolo 3 volte nel mazzo, anche solo per dargli fastidio. No, vediamo cosa succede, dai. Ah, se no possiamo mettere una nuova regola. Wotan non conta ai fini dei punti influenza. Certo, assolutamente. Poi conta come 8 punti agenda, magari, no? Certo, per l'agenda density, dai, basta via boiate, ti prego. Finiamo con l'ultima, che è del bo. Ragazzi, vedete? Vediamo un po' chi è l'ultima. Ci siamo tenuti la migliore per ultima. Vediamo un po', vediamo un po' chi scrive, guarda un po'. Paolo Ranzani, attenzione. Oh! Caro zio Wotan, come mai in una delle partite più importanti del Kronos contro Pierre, con l'avversario tutto taggato, gli scorcederteno le ultime due carte del mazzo? L'avversario tutto Sì, taggato, sei guarda, guarda. eccitatissimo, Sì, sei sì, sì, sì. Eh sì, eccitato. quando dopo alla 18ª tag, cioè non ti puoi trattenere, no? Schifo di me. Vabbè, comunque, vediamo un po' cosa dice lo zio Wotan. Sì, sulla falsariga del commento della letterina di prima, tua, tra l'altro, no? Che stava maledicendo, dicendo che non avrei mai trovato Fontesia. Sì, È il e lui contrario. invece è il contrario, lui di Fontesina ne ha trovati 28, ma non ha trovato gli Scorched Earth. Vabbè. Vabbè, comunque, vediamo un po'. Zio Wotan, cosa puoi dire al buon Paolo Ranzani? Caro Paolo, ti saluto, grazie per avermi iscritto. Non pensavo che avrei mai e poi mai ricevuto una tua lettera, viste le tue ultime prestazioni da urlo, degli altri di urli, ovviamente. Beh, che dire, finalmente forse con quella partita ti è stato chiaro che avresti già dovuto cambiare il tuo mazzo. Basta Wayland, basta Scorchedurt, prova nuove emozioni, visita nuovi posti, esci un po', smetti di giocare, fuori c'è il mondo. No vabbè, a parte gli scherzi, caro Paolo, no, non stavo scherzando, basta Scorchedurt, un saluto. Beh, Paolo, io che con te ci gioco spesso, che ho avuto la fortuna, come dire, io mi accodo, sai benissimo che mi accodo, no vabbè, in realtà il tuo mazzo mi piace un sacco. Quel torneo ci siamo pure ammazzati a vicenda a colpi di Scorched, come dire, è stato bellissimo quell'odore di pollo bruciato a fine torneo, no? Insomma, non lo so, mi piacerebbe vederti veramente giocare qualcos'altro, forse, ma no, che poi vabbè, vedremo. Insomma. Qualcosa di antimeta, io suggerisco un mazzo che sto provando recentemente. Sì, con dentro 49, sì, NBN Fast Advance, oppure un mazzo a 100 carte. Oppure con un dentro... mazzo HB a 100 carte. Sì, esatto, con dentro 97. Comunque, adesso tu te ne vanti pure, usare scorciatore proprio da villani. Siete dei brutti, io non l'ho mai usato e infatti... Non l'hai mai usato? Su questo non lo so, è che non l'hai mai usato. Buono. Terza modera, vergogna, fai schifo. Ragazzi, allora, questa era la prima puntata. Speriamo, entrambi ci auguriamo che vi sia piaciuta. Lo zio Wotan non frega niente. Sì, no, lo zio Wotan vi odia. Però, a parte questo, niente, vi chiediamo di lasciarci un commento, di farci sapere cosa ne pensate e mi raccomando, hashtag caro zio Wotan per farci sapere qualcosa o scrivete sul gruppo, mi raccomando, fate in modo che ci giungano le vostre segnalazioni in modo da poter fare nuove puntate. Nel senso che non scrivete a caso senza informarci cose, diteci. Esatto, cioè non lamentatevi senza un motivo, lamentatevi con lo zio Wotan. Così sarete insultati. Esatto, no, in realtà vi capisce, no? L'avete appena visto che vi capisce, sì, tutti, sì. Vi vuole, adorabile, adorabile. Vi vuole un sacco di bene. Beh, grazie per l'ascolto e sigla! Il pollo ama la polla, il passero la passerà, ma tutti amano... Zio Wotan. Ma lui vi odia tutti. Zio Wotan.